Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. La sequenza è da film dell'orrore, ma è reale. La modalità, difficile da capire e da spiegare. Come abbia potuto una donna alla guida di un'auto non accorgersi della ragazza che aveva appena investito, trascinandola per diversi chilometri, è incomprensibile. Stava andando a piedi a trovare la nonna, quando poco distante da casa, a Santa Giustina in Colle, provincia di Padova, è stata colpita con violenza da una jeep guidata da una 62enne. L'impatto ha distrutto uno dei due fanali anteriori, ma l'anziana ha continuato a guidare senza fermarsi ed è rientrata a casa, parcheggiando il SUV, il corpo martoriato della ragazza ancora incastrato tra le lamiere. Sono stati alcuni testimoni ad avvertire i carabinieri che, seguendo la scia di sangue sull'asfalto, hanno rintracciato l'auto e la proprietaria. La donna era in uno stato confusionale. Oddio, dopo fa un po' impressione sentir chiamarla anziana una signora di 62 anni, che potrebbe aver fatto le scuole elementari con me, più o meno. Io faccio la terza, lei faccia la quinta. Non c'è molto da scherzare in realtà. La strage dei pedoni nel nostro paese è qualcosa di preoccupante. Questa mattina abbiamo messo assieme due incidenti che hanno particolarmente impressionato l'opinione generale. Questa signora che trascina per chilometri una ragazza, nonostante gli abbia ammaccato un fanale di una jeep, e quindi per lesionare la carrozzeria di una jeep, l'impatto è stato bello forte, ma non si è accorta di nulla, ha continuato a trascinarla. E l'altro signore nel torinese, che investe un ciclista, lo lascia per terra e poi se ne va a casa e si mette a dormire tranquillamente, mentre l'altro è morto sul colpo. Questo secondo caso, sottoposto all'alcol test, l'automobilista è risultato positivo. Quindi anche il sonno è determinato dal fatto che ha probabilmente alzato il gomito. Ci dicono i dati che nel nostro paese abbiamo un 7% in più di incidenti rispetto agli incidenti con vittime della strada rispetto alla media europea. I dati in sé dicono poco, sono numeri, vogliamo entrare più nello specifico questa mattina. Capire se è vero che nel nostro paese, tra le tante categorie a rischio di cui tanto si sta giustamente, propriamente parlando, non vada aggiunta anche quella dei pedoni. Esiste una circostanza ambientale, genetica, fisiologica, per cui in Italia il pedone rischi più che in altri paesi? Siamo meno attenti quando siamo al volante, abbiamo meno intenzione di osservare anche la gente che va a piedi. Qualcuno già mi ha scritto: il triste record di cui parlate è figlio di un'arroganza comportamentale di noi italiani. Io guido per lavoro e posso testimoniare, siamo incivili e senza rispetto per noi stessi e per gli altri. Beh, questa è la domanda. 800 24 00 24. Siamo geneticamente dei serial killer di pedoni quando siamo al volante? In Italia ogni anno quasi 5.000 persone perdono la vita in seguito a scontri stradali. Circa 300.000 sono i feriti. Si può stimare che di queste morti, circa 1.500 rientrino nella fattispecie dell'omicidio stradale, di uccisioni causate da qualcuno che si è messo alla guida in stato alterato. Drogarsi, ubriacarsi e poi mettersi alla guida di un'auto in stato semiconfusionale, tanto da non distinguere più la strada, può considerarsi un semplice incidente? O non è piuttosto un atto assolutamente consapevole? In Italia lo scorso anno ci sono stati circa 600 omicidi con arma da fuoco o da taglio, ma uccidere con un mezzo meccanico, camion, auto, moto, ciclomotore, è molto più semplice che uccidere con una pistola. Secondo le analisi, il 30% degli incidenti gravi è associabile all'alcol e oltre l'80% di morti e feriti sono pedoni e motociclisti. Gli incidenti mortali sono causati nell'87% dei casi da adulti con più di 25 anni e l'80% di questi sono maschi. 800 24 00 24, stanno già arrivando molti messaggi. Chi dà la colpa ad alcune categorie ben precise: delinquenti, ubriachi, marci, drogati, italiani, extracomunitari, prende un anno di condizionale per aver ammazzato questi poveri ciclisti o pedoni. Se ci fosse 25 anni di carcere garantiti, forse qualcosa cambierebbe. Un altro ascoltatore mi scrive: gli incidenti sono dimezzati rispetto a qualche anno fa. Certo, ormai tutto fa notizia. Beh, tutto fa notizia. Gente ammazzata per strada con una totale inconsapevolezza da parte di chi guida, se permettete, vale la pena di parlarne. Maurizio, buongiorno. Sì, buongiorno. Ovviamente tutti i comportamenti fin qui illustrati sono sulla faccia di tutti, sulla vista di tutti. Non è sufficiente, a parere mio, questo e basta. C'è anche da discutere del fatto che è anche la cattiva educazione, le cattive abitudini non più controllate, perché noi possiamo osservare, penso che tutti noi andiamo in giro per il traffico, possiamo osservare che vigili, polizia, carabinieri rarissimamente si fermano più a far rispettare le regole. Io non sento un fischietto di un vigile da quando ero ragazzino, non vedo più vigili che fermano le persone perché hanno girato, hanno fatto inversione a U. Mi sono rivolto ai vigili urbani per protestare, mi sono stato trattato a pesci in faccia, ho fatto degli esposti anche contro le forze dell'ordine. Allora penso questo. È una sintesi, Maurizio. Lei pensa che c'è ormai un lassismo generale nei confronti del pericolo che può rappresentare un essere umano alla guida? Sì, c'è il pericolo dell'essere umano viene anche dal fatto che proprio le regole che regolano la circolazione non vengono più osservate. Per cui anche da lì si parte, perché io quando ero ragazzo, se facevo un sorpasso o ci solo provavo, la polizia mi fermava. Adesso non lo fa più nessuno. È chiaro, allora... Maurizio, fermiamoci. Antonio. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno. Da Padova. Il suo punto di vista. No, io volevo richiamare un po' l'attenzione sulla faccenda, sulla diversità della patente in Italia rispetto ad altri stati europei. Qui da noi la patente ha una scadenza legata a un rinnovo che è o 5 o 10 anni a seconda dell'età. Io ho 64 anni, l'anno prossimo 65 mi scade la patente. Basta fare una visita medica e c'è il rinnovo automatico. Negli altri stati non c'è un rinnovo, le patenti non scadono, però sono sottoposte a un controllo, ciascuno è sottoposto al controllo del medico. Cioè quando il medico di fiducia, un medico curante oppure a seguito di una patologia, uno si fa curare, viene segnalato automaticamente e passa sotto una commissione di controllo che quindi vigila. Cioè c'è una responsabilità. Quindi Antonio, vediamo se ho capito bene, lei dice siccome una gran parte italiani prendono psicofarmaci, prendono farmaci che possono alterare il loro stato di veglia quando stanno al volante, o si fanno, si ubriacano, tirano cocaina, alzano il bicchiere in maniera troppo frequente, se ci fosse un controllo medico almeno questi sarebbero tagliati fuori. Responsabilizzato su queste cose. Quando il medico prescrive una medicina, non basta che gli dica guardi che quando lei prende la medicina non deve guidare, dovrebbe segnalare a chi di dovere e quantomeno insomma, dovrebbe essere presa qualche provvedimento a sede centrale, come fanno gli altri stati europei. A lei risulta che all'estero avvenga questo. Fermiamoci Antonio. Buongiorno all'avvocato Gianmarco Cesari, buongiorno. Buongiorno. L'avvocato Cesari, tra le tantissime altre cariche, è anche avvocato dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, sito www.vittimestrada.org. Le ho fatto ascoltare un paio di telefonate a caldo con dei punti di vista così presi dai nostri ascoltatori. Può integrare in qualche maniera o correggere il tiro se pensa che l'opinione generale che abbiamo raccolto sia troppo vaga, non sia centrata rispetto al problema? No, l'opinione è centrata, l'opinione pubblica, come hanno detto i due ascoltatori, centrano bene anche i due temi, patente e controllo medico e segnalazione. Patente perché la patente non è un diritto umano inviolabile, noi abbiamo una patente che ci consente di guidare e di far parte di una comunità stradale, ma quando non si hanno più i requisiti, ma non solo dal punto di vista dell'accertamento medico, ma soprattutto anche psicologico, non si può più far parte di questa comunità. Per quanto riguarda la questione del controllo medico, senz'altro sarebbe assolutamente necessario una segnalazione, soprattutto quando si somministrano psicofarmaci capaci di alterare l'equilibrio psichico. Che diciamo che è molto diffuso, c'è una percentuale altissima di consumatori di psicofarmaci. C'è anche una Cassazione, io mi ricordo, c'è un indirizzo proprio giurisprudenziale che attribuisce una precisa responsabilità al medico che somministra uno psicofarmaco senza avvertire del rischio di mettersi alla guida, quindi c'è anche una condotta concorrente causale da parte del medico. Il medico probabilmente lo dice al paziente, poi il paziente... Ma non basta informarlo e basta, bisogna far sì che la persona non guidi. Ecco, ecco, però non esiste nessun tipo di procedura, esatto, c'è una obbligatoria falla, per questo. C'è una falla del nostro sistema, assolutamente, così come c'è la necessità che quando si opera, per esempio, si fa un intervento chirurgico che su un paziente che ci si accorge che non è più in grado di guidare, ci dovrebbe essere una pronta segnalazione da parte della ASL alla prefettura per dire: guardate, questa persona non ha più i requisiti psicotecnici per guidare. E questo è contemplato, c'è una legge che dice questo? È contemplato, però non c'è diciamo una diretta applicazione, per cui ci sono ritardi, e in questi ritardi, in queste more, si può continuamente guidare, ledere e uccidere. Ci sono tanti, bisognerebbe portare avanti proprio una serie di norme transitorie per arrivare poi a una disciplina organica, che purtroppo la scorsa legislatura non ha fatto, e adesso bisogna augurarsi. Ma c'è qualcuno che aveva portato l'attenzione a questo problema? No, noi abbiamo, come Associazione Vittime Strada, ci siamo impegnati tantissimo per portarlo all'attenzione, abbiamo fatto proprio portato avanti un disegno di legge segnalando al governo e al Parlamento la necessità di una nuova normativa penale civile, e chiedendo proprio, e chiediamo adesso proprio alla ripresa dei lavori di questa legislatura, un impegno col concorso di tutti gli operatori e le rappresentanze delle vittime, proprio per degli interventi integrativi e migliorativi della disciplina. Sa che penso, avvocato? Perché noi sarebbe molto più facile, ci appagherebbe il nostro senso generale giustizialista, dire: noi italiani siamo maleducati, i vigili sono cialtroni, la cattiva educazione, che può anche starci, se vuole, ma in realtà lei mi sta facendo capire, ma me l'hanno segnalato spontaneamente gli ascoltatori da soli, autonomamente poco fa, che in realtà ci sono dei vuoti normativi che poi, messi tutti assieme in fila, determinano l'indice preoccupante di aumento di incidenti mortali. Esatto, ma infatti noi proprio questo abbiamo fatto presente, che non basta un disegno di legge aumentare le pene, tout court, perché qui c'è un fattore culturale e sociale che riguarda le istituzioni, che riguarda i cittadini. Quindi c'è una necessità e opportunità di una serie di interventi che abbiano proprio oggetto, in via prioritaria, l'individuazione chiara di una normativa transitoria che è del tutto assente, un raccordo con le leggi in materia e poi un cambio di mentalità. E i primi a cambiare mentalità devono essere chi controlla e i magistrati. Cioè, io vengo fuori, guardi, le dico, a Roma, un processo penale per omicidio di un signore che si chiamava Mosetti, investito a retromarcia dentro l'area della clinica qui si sana. Ecco, questa persona che ha ucciso un uomo schiacciando la retromarcia, proprio andando indietro con un furgoncino, gli hanno dato una pena patteggiata di 10 mesi e 10 giorni di sospensione della patente a questa autista. Allora, riflettiamo su questa sanzione accessoria, no? Perché tante volte ormai la pena detentiva non si patteggia, si sta nei limiti dei 3 anni per l'affidamento ai servizi sociali, diventa quasi inapplicabile. Però c'è la 222 del codice della strada che serve a sospendere la patente. Tante volte ci sono dei giudici che sospendono 2 anni, cioè hanno la possibilità di sospendere fino a 4 anni, ma non lo fanno mai. Anzi, siamo riusciti a vedere questi 10 giorni simbolici, che è come dare una pacca sulla spalla a chi ha ucciso e rimandarla a casa e dire: guarda, non lo fare più. Allora, ecco quindi il cambio di una mentalità. Ma sa, se avvocato, sembra che quasi la percezione generale, ma anche da parte di poi di chi amministra la legge, di un omicidio compiuto al volante, non voglio dire sia meno grave, ma non ci sia una partecipazione, una colpa. Se è un omicidio fatto per sbaglio, così, ma se io tiro una martellata e colpisco l'avvocato Cesare e l'ammazzo, certo, è omicidio volontario. Certo. Se io voglio avere lo stesso scopo e le vengo addosso con la macchina, in realtà sono molto depenalizzato, certo, anche certo, se la mia intenzione è la stessa. Non voglio dire che ogni incidente stradale sia la volontà di uccidere, ma quando uno omette delle attenzioni è come semplicemente avesse la volontà di far del male a un altro, esatto, o mi sbaglio? È così, ma c'è quello che io definisco sempre, cioè una sottovalutazione, una banalizzazione del reato dell'omicidio stradale. Viene percepito come un qualcosa, come un reato di serie B, come un fatto che sia quasi normale e quindi quasi da depenalizzare, quando invece è il reato più pericoloso che esista ed è il reato che fa più morti, fa una continua, fare una strage continua, inarrestabile. Quindi è questa percezione sociale che non c'è. Quanti sono? Lei ha qualche numero, avvocato, su quanti siano poi morti per investimento, per incidente in Italia? Ma adesso siamo arrivati, diciamo, a dimezzare di molto, siamo arrivati a contare dai 6.000, 7.000 persone decedute, siamo arrivati a 4.900. Però abbiamo un buon terzo di queste persone che avvengono, di queste persone che sono state uccise in città, quindi non fuori città, e sono pedoni. E quindi qui c'è un fattore che è, da una parte, la scarsa attenzione da parte dei pedoni stessi e la scarsa attenzione da parte dei guidatori, che li considerano come dei moscerini da schiacciare. Ma è possibile scopo, il dato, adesso lo spiego, ci sono meno morti per incidenti stradali, sì, perché le autovetture hanno dei sistemi di sicurezza molto, esatto, più sofisticati, come... e nelle autostrade c'è i limiti di velocità e ci si sta un pochino più attenti, ci sono dei motivi, ma gli incidenti della fattispecie di cui stiamo parlando questa mattina, di persone che ammazzano pedoni facendo retromarcia, no, perché non sono calati, non sono calati perché è calato per esempio il numero dei giovani morti per stadi del sabato sera con l'introduzione, diciamo, dell'abbassamento della soia dell'alcol, no? E quindi con la, ci stanno un po' più attenti, cioè. Sì, ci stanno più attenti. È calato anche la mortalità per velocità, ma quella che è la mortalità più letale, cioè quella per distrazione, purtroppo non è mai calata. E lì bisogna agire culturalmente e socialmente. Fermiamoci un secondo, sentiamo qualche ascoltatore. Marco. Sì, pronto. Buongiorno, Marco. Sì, buongiorno. Io volevo solo intervenire a un'esperienza mia personale. Premetto che sono un autotrasportatore e io ho avuto 10 anni fa un incidente che purtroppo non l'ho provocato io, ma mi sono trovato la macchina davanti in autostrada e Dio solo sa com'è andata. E, boh. E niente, il discorso è questo. Allora, in Italia io voglio dire... E il conducente cosa è successo? È morto? Il conducente è morto, purtroppo, ma non per causa mia, perché io... le spiego brevemente, cerco di essere proprio stretto il più possibile. Allora, in Italia, in autostrada, lei si mette in autostrada da una rampa di missione, dove c'è un cartello che dice dare precedenza, quindi non è perché ti stai mettendo in autostrada hai diritto ad andare. Io sono arrivato dietro, me lo sono trovato davanti, io premetto che con un camion viaggio 80 all'ora, le arrivo dietro, lei si mette davanti a me a 20 all'ora, è normale che io ti vengo addosso. Allora, prima di metterti, usiamo... guardare gli specchietti, che nessuno fa, ed ecco che è venuta fuori una strage. A parte quello, in autostrada, in Italia, io dico in Italia perché io giro l'Europa e mi credo in Italia. La colpa, è stata lei, c'è stato un processo. La mia fortuna, dopo tutto, è avvocati, giudici, la mia fortuna è stata che vicino a questa emissione, diciamo, a questa entrata autostradale, c'era i cartelli sopra con le telecamere, quindi la telecamera dell'autostrada ha ripreso il tutto e io mi sono salvato per quello. Ma mi creda, test antidroga, alcol e tutto, e io ero a posto. Sì, era sì. Posto, quindi allora non dobbiamo associare perché io guido il camion, allora vuol dire che bevo, mi ubriaco e tutto quanto, perché lo fa chiunque. Dobbiamo partire dal presupposto che in Italia manca educazione stradale. Mi creda che l'Italia è il paese più ignorante che c'è in strada e in autostrada, perché lei si mette in qualsiasi tangenziale, in qualsiasi autostrada a tre corsie, le macchine a 130 all'ora viaggiano in centro, che poi a 130 viaggia quasi mai nessuno, non c'è nessuno che viaggia a destra. D'estate lei deve vedere la corsia di destra quasi libera, le due corsie, quindi è vero, la è vero. Prima e la c'è, ecco, allora partiamo già da quel presupposto lì. Uno che guida e non è capace a viaggiare a destra, già lì già capiamo che persona è. Quindi lei come fa a dire che succedono gli incidenti, non si accorgono neanche quando prendono sotto le persone. Mi creda, a me a volte mi toccano, mi dicono non ti ho visto, ma io sono 18 metri e non mi vedi. E lei come può pretendere che una persona prende sotto un pedone e lo trascina? Non se ne accorge neanche, non vedono neanche a un palmo di là dal muso. Ecco, secondo lei com'è possibile l'incidente di Padova di cui abbiamo parlato questa mattina? Premetto, quello del SUV? Sì, quello del SUV. Allora, io non voglio fare... No, senza, chiaro, ma secondo lei è possibile, allora, investire un pedone? La distrazione, allora, tante volte io le dico, ma veramente, se ci fosse più attenzione, più educazione stradale, invece qua ogni volta che uno si mette in strada c'è la gara di arrivare prima alla meta di dove dobbiamo andare. ma io vi credo, a 20 anni che sto sulla strada ne vedo di cotte e di crude, perché tamponarsi in autostrada, mi creda, tamponamenti fra macchine o anche fra camion, perché non è che la nostra categoria sia la migliore in assoluto, però l'esperienza va fatta con i chilometri e guidando. Io ho oltre 1 milione di chilometri sulle spalle, perché ho 20 anni che guido, quindi si figuri un po', faccio circa 200.000 chilometri all'anno, quindi in 20 anni si faccia del conto, quindi io ne ho viste di cotte e di crude. Allora le dico veramente, tanta gente guida la macchina come se fosse davanti alla tastiera di un computer, non si accorge neanche veramente se c'è un animale che sta attraversando una strada, un micio, un cane, qualcosa, lo prendono sotto, non lo vedono e non lo sentono neanche sotto le ruote. C'è gente che non si controlla neanche la pressione delle gomme, poi scoppiano gomme per strada. Abbiamo capito, fermiamoci un attimo, è chiaro, ci ha raccontato il punto di vista, lo sfogo dell'autista di camion che ha avuto un incidente per vicende, questa volta non riguardanti una sua disattenzione. Mi stanno scrivendo dicendo che anche i medici della ASL a volte non mettono l'obbligo lenti sulle patenti, lasciando sulla coscienza delle persone l'uso degli occhiali. Mi sembra poco probabile questo, perché è una visita medica, ne risponde poi il medico. Melog, la realtà condivisa. Le sue condizioni sono gravi, ha riportato un trauma cranico ed importanti emorragie delle vie aeree superiori. Chi l'ha ridotto in fin di vita è fuggito senza prestare soccorso. Secondo alcune testimonianze, alla guida dell'auto che ha centrato in pieno il 12enne, che ha fatto un volo di 20 metri, c'era una donna. Secondo i carabinieri, potrebbero infatti portare all'identificazione dell'uomo che mercoledì scorso, alla guida di un SUV rubato, ha travolto e ucciso a Padova un pensionato di 77 anni, dandosi poi alla fuga. Il pirata della strada probabilmente ha già lasciato l'Italia. Quello che questa mattina stiamo cercando di capire è se esistono dei vuoti legislativi, delle circostanze particolari per cui in Italia ci sia un numero elevato di incidenti di questo tipo, di persone che travolgono pedoni. Non tanto gli incidenti stradali tout court, come abbiamo già detto, per le maggiori norme di sicurezza, limiti di velocità si sono dimezzati. Rimangono alti gli incidenti in cui delle persone a guida di un'autovettura travolgono un pedone e lo uccidono. In particolare ne parliamo per due episodi particolarmente cruenti che sono sui giornali questa mattina. Il ragazzo di 22 anni che travolge un ciclista, lo uccide, un povero signore che si andava a fare una passeggiata in bicicletta come tutti i giorni, torna a casa, si mette a letto e dorme tranquillo. Quando lo sveglia dice: hai ammazzato una persona. Dice: ma non mi sono accorto di nulla. All'alcol test è risultato positivo. La signora in provincia di Padova che travolge una ragazza con la sua Jeep, l'arpiona con un pezzo di carrozzeria che diventa un uncino alla mano, la trascina per chilometri, la ragazza ancora viva urla, strilla, batte, lei non si accorge nulla, continua a trascinarla finché non arriva a casa. La gente vede passare una macchina con un cadavere sempre più consunto e trascinato sull'asfalto, telefona ai carabinieri che inseguono questa macchina, arrivano proprio mentre la signora scende, dice: signora, ma visto cosa c'ha attaccata la macchina? Il cadavere di una ragazza. La signora si sente male. Poi leggo negli articoli che stava facendo delle terapie per un suo problema di tipo fisico, quindi prendeva dei farmaci. Ecco, è possibile che l'alcol o dei farmaci particolarmente negativi per la lucidità alla guida possano essere tranquillamente presi senza che non esista qualcosa o qualcuno che prescrive che per quelle particolari cure non si possa guidare, bisogna occorra avere una particolare attenzione? E questo vorrei chiederlo questa mattina a Giordano Biserni. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Giordano Biserni, presidente dell'ASAPS, che è l'associazione dei sostenitori amici della polizia stradale, che hanno fatto uno studio proprio su questa particolarità. Quali sono i risultati della vostra indagine rispetto alla carenza proprio normativa, che non ci sono prescrizioni precise? Uno può fare delle cure che in realtà ti rendono meno lucido, ma non c'è nessun obbligo che questo corrisponda a una disabilitazione alla guida. Beh, dunque, questa era una carenza veramente molto forte del codice della strada. Si faceva sempre appello al medico curante che doveva intervenire nei casi specifici sconsigliando la guida e magari nei casi estremi segnalando alla motorizzazione, eccetera, in una condizione di rischio. Ed è stato sempre un aspetto molto debole. Poi è intervenuta la legge 120 del 2010 che ha modificato in larga parte il codice della strada, che ha previsto una serie di adempimenti abbastanza importanti, però è rimasta lettera morta. Mi spiego, la legge prevedeva il varo dell'elenco dei farmaci pericolosi per la guida, che doveva essere emanato, mi pare, dopo 4 mesi dalla legge che è entrata in vigore il 13 agosto 2010, le lascio immaginare. Quindi sono 3 anni che noi aspettiamo l'elenco dei farmaci disabilitanti alla guida. Pericolosi non solo, ma nei farmaci pericolosi doveva essere inserito un pittogramma, cioè un simbolo che indicava proprio in maniera evidente, lo aveva richiesto l'ACI e varie associazioni, compreso la nostra, in maniera evidente la pericolosità dell'assunzione del farmaco, che era, come devo dire, incompatibile con le condizioni minime di guida. Ecco, che categoria di farmaci erano? Generalmente sono farmaci che hanno, come devo dire, conseguenze sull'attenzione, sulla psiche della persona, quindi i medici sanno perfettamente, ma il Ministero della Sanità faceva un elenchino in ordine alfabetico, e quindi si sarebbe dovuto stampare questo marchio che diceva: attenzione, quando assumi questi farmaci, poi è chiaro che dipende dalle persone e dipende anche dalle quantità. È inammissibile però che una signora vada alla guida, travolga una ragazza, Michela Nicoletti, per 4-5 chilometri e non si renda conto di quello che è accaduto. Se lei va... Ha deformato la carrozzeria di una Jeep, in modo tale di creare un uncino di metallo che ha arpionato la ragazza. La ragazza continuava a strillare, urlare e non si è accorta niente. Era proprio fuori di testa in quel momento. Ma guardi, qui siamo Edgar Allan Poe della strada, mi credo, cioè qui siamo veramente in condizioni assurde. Se una persona del genere guida una vettura, lascio immaginare quali condizioni di rischio si possono portare nel tempo. Mi lasci dire, guardi, come esperienza di tanti anni di polizia stradale e anche dell'associazione ASAF che dirigo, io credo che quella dei farmaci, quella dell'ebbrezza da farmaci, mi lasci definire questa condizione, sia una delle ebbrezze degli anni 2000, cioè oltre a quelle da alcol classiche, per le quali esiste un etilometro che ci dice una condizione, quelle da droga, per le quali non esiste un etilometro specifico, esistono dei narcotest che hanno bisogno poi di meccanismi di verifica molto puntuali, molto precisi e dispersivi di energie, quindi non funziona il meccanismo, esiste anche questa condizione di questa narcolessia, di questa condizione di rischio dovuta a medicinali, sulla quale non esiste una norma ancora specifica e precisa, ma soprattutto non esistono strumenti forniti alle forze di polizia per intervenire se non dopo. Le posso dire un'altra cosa, Biserni, che può sembrare impietosa e politicamente scorretta, non lo dico contro il mio stesso interesse, ormai ho 58 anni, quindi fra un po' sarà un problema e toccherà a me stesso. Io ho visto casualmente una volta una commissione che esaminava alcuni anziani, ma anche molto anziani, per capire se erano adatti o no alla patente, ma si limitavano a dargli un'occhiata e a mettere un timbro sulla patente. E molte volte si vede per strada in realtà dei rispettabilissimi non netti, che sono i veri pericoli pubblici. Anche qui, qual è il livello di attenzione? Guardi, oggi noi abbiamo pubblicato sul portale dell'ASAF, lo potete andare a vedere, una statistica sui contromani in autostrada e sulle superstrade. Sono frequentissimi e c'è sempre dietro il povero signore le caratteristiche sono avanti, guardi, nell'età, con il cappello in testa, che imbocca contromani e non si rende conto. O ubriachi, o stranieri, o anziani. Queste sono le caratteristiche in genere più frequenti. Guardi, quello è il problema del futuro, sa, perché le spiego, quando la nostra generazione, io sono un po' più grande di lei, ma insomma siamo abbastanza coetanei, quando la nostra generazione dovrà abbandonare la macchina... Prima o poi toccherà anche noi di rincoglionirci, chiaro. Ne vedremo delle belle, Nicoletti, nel senso che, vede, noi siamo nati con la macchina, avremo grandi difficoltà, si dovrà arrivare a una patente limitata nello spazio e nel tempo, mi spiego, l'Unione Europea ha già studiato questo, non è possibile che una persona di 85-90 anni possa andare ovunque con la macchina, dovremo inventare delle condizioni per le quali, caro amico Giordano Biserni, lei un po' avanti con l'età, non vede bene: A, non guida più di notte; B, lei non può guidare più in autostrada, sa; C, lei può andare con la sua consorte, la signora Pina, a fare la spesa al supermercato e portare i motini, ma non può allontanarsi dalla sua provincia. Dovremmo arrivare a delle condizioni che non vadano a sfalciare completamente la mobilità dei nostri anziani, ma ne limitino in maniera veramente importante la circonferenza dell'azione e la temporalità. Perché altrimenti... Sì, per qua non c'entra niente, diciamo, il rispetto e la pietas per un anziano, è un pericolo pubblico. Ieri sono venuto all'autostrada, le assicuro, c'era una 127 che andava a un cilindro lungo l'autostrada sulla Genova Firenze, che era veramente un pericolo pubblico. Camminava nella corsia di mezzo, c'era un signore che aveva avuto 80 anni passati con la moglie vicino. Mi facevano tanta tenerezza, ma abbiamo rischiato veramente per quella persona. Sicuramente, lì. Guardi, io le racconto un episodio che ci è stato raccontato, una signora di 94 anni che è andata a rinnovare la patente e purtroppo una certa superficialità è stata quella di dire: ma lei che ci fa con la patente? Vado allo stadio. Di che squadra è? Tifosa, da Roma, bene, approvata. Qui siamo, per dire, è un commento. Ho visto qualcosa di simile, per questo le parlo. Sfermi un attimo, introduco l'altro ospite, ci sarà un'altra parte per parlare anche per lei. Lamberto Santini, presidente ADOC, Associazione Difesa Orientamento Consumatori, buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori, buona giornata. È d'accordo con quello che stiamo dicendo? Ha degli elementi da aggiungere dal suo punto di vista? Ma l'elemento drammatico è che noi abbiamo riscontrato una percentuale di in Italia di 62. Ecco, voi avete dei dati diciamo un po' più aggiornati. Sì, 62 incidenti su 1 milione rispetto ai 40, ai 55 della media europei e dei 40 della Germania, ma soprattutto il dato drammatico che voi portavate è il pedone. 15% di questi incidenti vedono il pedone colpito dall'autista e dal mezzi, e questo è un dato drammatico che dipende soprattutto nelle grandi città, fondi stradali impietosi, illuminazione scarsissima, mancanza di rispetto per le righe, cioè l'attraversamento pedonale molto spesso è scarsamente segnalato. Ecco, questi dati di fondo portano a dire che noi siamo un paese fortemente a rischio. Ricordo. Ecco, è inutile, la gente continua a scrivermi dicendo sono dimezzati gli incidenti stradali. È vero, sono dimezzati gli incidenti stradali, ma rimane alto il numero dei pedoni e degli esseri umani travolti e uccisi soprattutto nelle città. Melog, la realtà condivisa. Stanno scrivendo gli ascoltatori, gli antistaminici fanno dormire, gli antinfiammatori danno torpore, ma se lo dichiari non li vendi più. Poi scrive un altro ascoltatore: ho la polio, ho sempre avuto limitazioni e prescrizioni per guidare, anche se in fondo mi manca solamente l'uso di una gamba. Mi è capitato più volte vedere amici dopo un incidente con braccia e gambe ingessate, si mettevano alla guida e cercavano di arrangiarsi alla belle meglio. E allora 800240024, stiamo parlando di quella fetta di incidenti stradali che ci dà un terrificante primato in Europa, che avvengono nelle città e soprattutto a scapito dei pedoni, che vengono travolti, di cui nessuno ha interesse a salvaguardare l'integrità, un po' per le strade dissestate, un po' per le segnaletiche insufficienti, un po' per la maleducazione generale, per i parcheggi messi in maniera iperbolica che impediscono la visibilità e via dicendo. Angelo, buongiorno. Buongiorno. Lei è un neuropsichiatra, quindi può darci qualche lume rispetto a quello che stiamo trattando in maniera forse superficiale. Sì, io mi occupo neuropsichiatra da 30 anni e mi occupo, fra le altre cose, del rinnovo della patente agli anziani. Ah, benissimo. In ospedale ci vengono le richieste da parte delle commissioni patenti sulla validità della capacità di questi soggetti per rinnovare la patente, e io mi accorgo di una cosa: la drammatica situazione, almeno nella nostra, sono in Lombardia, in una grossa provincia della Lombardia, l'ignoranza che purtroppo caratterizza queste persone, per cui sono anche capaci di guidare in automatico, perché se gli fai la prova di guida pian pianino vanno, però non sono capaci di leggerti i cartelli, non sono capaci di farti i test, non hanno memoria, non hanno capacità di attenzione, e quando tu neghi la patente a questi ti senti, tra parentesi, io sono stato minacciato non più tardi della settimana scorsa, e è normale che ti aspettino in ospedale o ti telefoni, non ti facciano minacce anche i parenti, perché dice: e adesso come fanno ad andare a fare la spesa al supermercato? Ma diceva molto giustamente un nostro ospite prima, bisogna dare delle patenti limitate, puoi fare il tragitto casa supermercato in certe condizioni al massimo, non puoi assolutamente avventurarti in strade diverse, anche se poi, da come mi dice lei, il pericolo rimane, rimane soprattutto per i pedoni, perché quando dai queste patenti limitate, dove sono? Nei centri urbani. Certo, hai questi soggetti che non sono assolutamente in grado di guidare. D'altronde non c'è nessuno che si occupa di loro. E come diceva qualcuno che ho letto su, anche sul Sole 24 Ore, sta aumentando il numero delle persone che vanno negli ospizi perché non possono andare a fare la spesa. Non so se era una buttata di un No, ma lo capisco politici perfettamente, basterebbe pensare a una forma di servizio che accompagna gli anziani a fare la spesa. Portargli la casa non basta, perché è una maniera di socializzare e di sentirsi vitali, io lo capisco, fare la spesa, però andrebbero accompagnati a fare la spesa. È un costo sociale, pericoli. Certo, ma è un costo sociale che dobbiamo prenderci, perché è molto peggio che vadano e rischino la vita degli altri oltre a loro. C'è da dire una cosa, che non è solo la patente agli ultra ottantenni, ci sono anche molte persone di 60-70 anni che vengono da noi a fare queste certificazioni perché hanno polipatologie. Ecco, mi dica, c'è questo un po' meglio. Mi parlano molto di farmaci, psicofarmaci e via dicendo. Ci sono mediamente delle terapie che vengono fatte in forma diffusa che sono invalidanti per la guida o parzialmente invalidanti? Allora, io sono certo di non essere smentibile nel dire che l'Italia è uno dei paesi che ha un altissimo consumo di psicofarmaci. Sì, questo è nelle statistiche, altissimi. Soprattutto benzodiazepine. Certo. Le benzodiazepine sono incompatibili con la guida, lo sanno anche i bambini. Ci sono i test, quelli che la polizia ti fa quando fai un incidente. Io devo dire che l'80% delle mie amiche che conosco prendono benzodiazepine. Eppure guidano, e lo sappiamo che non potrebbero. Perché, scusi, quando vanno a fare lo scontrino parlante, quello con cui detraggono dalle tasse il costo dei farmaci, in automatico il farmacista, quando mette il codice, perché c'è un codice a barra, è tutto in automatico, non c'è una banca dati che automaticamente gli blocca la patente. Poi che altri farmaci, per capire, dottore, potrebbero essere? Antidepressivi. Gli antidepressivi, sì. Gli antidepressivi, e soprattutto i farmaci che non sono previsti in uno dei più recenti decreti, che sono i neurolettici. Perché i neurolettici sono più forti, fra virgolette, diciamo così, poi qualcuno dei miei colleghi dirà che sto parlando in maniera molto banale, però sono molto più psicoattivi delle benzodiazepine, eppure non sono previsti. Mi faccio un esempio di una patologia per cui si prende un neurolettico, per capire. La depressione, certe forme di depressione, certe forme di depressione bipolare, certe forme di paranoia. Anche alcuni farmaci stimolanti maschili possono dare dei problemi? Che io sappia, non direttamente. Cioè, se uno usa, tanto per le pillolette gialle e azzurre, durante l'effetto non dovrebbero esserci problemi. No, perché se no c'è una specie di blocca sterzo, quello potrebbe essere un problema. Al di là della battuta, quello che comunque è più pericoloso è il fatto che non ci sia nessuna possibilità di controllo. Poi c'è un altro problema, il test per l'uso delle sostanze stupefacenti sulle patenti cosiddette professioniste. Una volta all'anno deve andare a consegnare il campione di pipì. E ovviamente quando ci va, quando può portarci quello del figlio, del nipote, del cognato. Anche ci va lui che controlla la carta d'identità e gli fanno fare la pipì, non dico con la porta aperta, comunque non accade mai. Chiusa, ma il problema è che ci va quando vuole lui, e lui che cosa fa? Io si astiene per una settimana da prendere tutte le sostanze e ci va tranquillo. Esatto. Certo, come medico. È stato molto utile, Angelo. Avvocato Gianmarco Cesari, conclusione, ha sentito, ci ha chiamato un medico, avvocato Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Ha detto cose sensate il nostro ascoltatore. Ma assolutamente sì, manca proprio nella nostra legislazione un sistema efficace di prevenzione da assunzione di psicofarmaci, diciamola così. E poi quello che manca soprattutto è la certezza della pena. Le nostre pene per i reati di omicidio stradale, ma anche di lesioni personali colpose stradale, perché non dimentichiamoci che tanta gente non muore ma diventa paraplegico, tetraplegico o senza organi o senza addirittura perdita di... Quindi andrebbe creato proprio il reato di omicidio stradale. In coma vegetativo permanente, con i familiari costretti ad assisterli per tutta la vita, che è un reato più grave addirittura dell'omicidio. Certo, perché coinvolge perché per non si elabora il lutto, ha delle complicazioni psicologiche esistenziali enormi. Grazie, avvocato Cesari, la sigla ci taglia, è molto chiaro. Grazie Fabrizio Intonti e Valerio Rocchetti, riprenderemo questo argomento, mi sembrerebbe ancora di più sviluppato.